Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È il re delle spy story, ha firmato romanzi come Il giorno dello sciacallo, Il quarto protocollo, Dossier Odessa. Stiamo parlando dello scrittore inglese Frederick Forsyth. È da poco uscito in Italia l'ultimo romanzo, Il Cobra, pubblicato da Mondadori con la traduzione di Anna Maria Raffo. Un romanzo sul traffico di droga e su un ex agente della CIA che indaga. Ecco come Forsyth ci parla del suo protagonista. He is the Cobra, and that's his code name. He's a retired ex-CIA senior officer. È il Cobra. Cobra è il suo nome in codice. È un ex agente della CIA in pensione che seguiva le operazioni speciali e faceva il lavoro sporco. È un uomo che non ha scrupoli, non ha inibizioni quando si tratta di proteggere il proprio paese dai nemici e viene nominato appunto per dirigere l'operazione contro l'industria della cocaina. Mount the attack on the cocaine industry. Questo personaggio era già presente in un altro suo romanzo, Il Vendicatore. Perché ha voluto farlo tornare? I think the reason was when I was preparing this book I needed a character. Credo che la ragione sia che per questo libro avevo bisogno di un personaggio con esperienza e che fosse spietato. Avevo quest'uomo, era Paul Devereaux. Era andato in pensione, ma era perfetto per la parte. Perché inventare un personaggio nuovo? C'è poi un altro personaggio, Cal Dexter, che compare sempre nel Vendicatore ed è un veterano del Vietnam che è, diciamo, la mano, l'esecutore. Se Paul Devereaux è la mente, Cal Dexter è il braccio. Erano in pensione. Dopo 10 anni dal Vendicatore, li ho recuperati entrambi. Ma questa dovrebbe essere l'ultima volta che compaiono. 10 years after Avenger, Vendicatori, and to ride again, but no, this will definitely be the last appearance. Ho letto da qualche parte che lei è stato per un periodo in Italia, precisamente a Buccinasco, vicino Milano, per documentarsi sul traffico di droga. È vero? The trail led to for the European, as opposed to the American. Cocaine trade. Il commercio per gli europei, diversamente dagli americani, il commercio di cocaina intendo, arriva dalla Colombia passando per l'Africa occidentale, per arrivare poi nell'Europa del Sud, in particolare in Spagna e Italia. Così ho fatto ricerche in entrambi i paesi. In Italia le mie fonti hanno puntato il dito contro l'Ndrangheta. Io volevo andare in Calabria, ma mi hanno detto che non ce n'era bisogno. Mi hanno detto di andare a Milano, in particolare in 3 centri dell'Interland, che sono una mini Calabria. Qui c'è la maggior parte del traffico europeo di cocaina. Milano è la capitale europea del traffico di droga. Milan is now the drug capital for Europe. I began researching this book about 2 years ago. Ho iniziato le ricerche 2 anni fa. Ho iniziato sapendo veramente pochissimo sulla cocaina. Sono stato in Gran Bretagna a parlare con la polizia. Sono stato a Washington. Ho parlato con gli agenti della DEA. Mi hanno detto che 300 tonnellate di droga all'anno finiscono negli Stati Uniti. Le altre 300 in Europa. Il primo paese che la importa è la Spagna, secondo importatore l'Italia, i più grandi consumatori in Gran Bretagna. Ho seguito le tracce che mi hanno fornito gli esperti. Questo è quello che ho fatto e ciò che veramente avrebbe fatto qualsiasi altro reporter. So much of it is really what a reporter would do, which is what I was, of course. A questo proposito, i suoi romanzi hanno spesso uno stampo giornalistico. Quanto spazio dedica alle ricerche? Well, on average, about 6 months before I start writing. In media circa 6 mesi prima di iniziare a scrivere. Faccio ricerche un po' ovunque, nel cosiddetto mondo civilizzato, a New York, Washington, alle Nazioni Unite, a Vienna, ma poi mi rivolgo anche al cosiddetto mondo non civilizzato, posti come Bogotà, Cartagena, o in un paese ostile come la Guinea-Bissau, che è nel libro. Tutto insieme, direi circa 6 mesi. In genere, come nascono le trame dei suoi romanzi? I'm not entirely certain. It just comes. I start with the subject. Innanzitutto scelgo l'argomento. Mi chiedo sempre se una determinata cosa sarebbe possibile. Per esempio, nel mio penultimo romanzo, L'Afgano, mi sono chiesto se fosse possibile infiltrare un ufficiale americano all'interno di Al-Qaeda. Nell'ultimo romanzo, invece, mi sono chiesto se fosse possibile vincere la guerra contro il narcotraffico, perché mi hanno detto che al momento è una battaglia che stiamo perdendo. E se sì, in che modo possiamo vincere? Beh, innanzitutto cambiando le regole. Se potessimo trattare i trafficanti di droga come terroristi, allora le cose cambierebbero veramente. Cambiare le regole, ma allora sì. Change the rules. Then, wow. Lei è l'autore di spy story che sono pietre miliari nella storia della letteratura internazionale. Mi riferisco a Dossier Odessa o Al giorno dello sciacallo. Questi romanzi le pesano o le danno uno stimolo? No, I've sometimes been reproached because I have a very... A volte sono stato rimproverato perché tengo i piedi sempre molto per terra. Io non considero i miei libri arte, non li definisco letteratura. Non ho una particolare spinta a scrivere, non ho un messaggio. Io scrivo per soldi, è un lavoro. Non sono preoccupato, lo considero un lavoro. Fai un lavoro. Se lo fai bene, hai successo. Se penso ai libri che ho scritto, mi dico... Ok, un buon lavoro, fatto bene. Ma non dico, oh, io mi adoro. Good job, well done. But not, oh, I love myself. E dal maestro delle spy story, Frederick Forsyth, a un altro giallista inglese, anzi scozzese per la precisione, Ian Rankin. È sempre appena uscito per Longanesi Un colpo perfetto, con la traduzione di Isabella Zani. Ecco come Rankin ci parla dei personaggi del romanzo. They are a self-made businessman. Sono un uomo d'affari che si è fatto da sé, che ha fatto una fortuna con i computer, ma ormai è annoiato. C'è un professore d'arte, molto preoccupato per quello che accade nel mercato dell'arte. Un poliziotto che sta inseguendo le tracce di un gangster, e poi questo gangster che si sta interessando al mondo dell'arte come via per movimentare soldi nel mondo. Uno dei protagonisti decide di fare un colpo, cioè di rubare delle opere d'arte, ma in realtà non lo fa per denaro. Perché? He loves art. Ama l'arte. Mark McKenzie ama l'arte e sa che molte opere d'arte sono tenute nei magazzini e il pubblico non le può ammirare. Io stesso ho scoperto che la National Gallery of Scotland tiene centinaia di opere d'arte nei magazzini e anch'io, come il protagonista, lo trovo frustrante. E così Mark McKenzie preferirebbe ammirare queste opere a casa sua. Questo è un romanzo senza John Rebus. Come si vive orfani del suo protagonista? Protagonista seriale, lo ricordiamo, un poliziotto, appunto protagonista di molti dei suoi romanzi, ora in pensione. John Rebus è in pensione, ma lavora ancora per la polizia come civile. Non è morto, è ancora nella mia mente e potrà ritornare in futuro. Comunque, allo stesso tempo, mi è piaciuto esplorare Edimburgo dalla prospettiva di altri personaggi. Per John Rebus, Edimburgo è soltanto la scena di un crimine. È stato bello in questo libro raccontare le storie di altri personaggi che hanno una prospettiva diversa su Edimburgo. Ma sta effettivamente lavorando al ritorno di John Rebus? No, non sto lavorando al suo ritorno. Ho scritto un altro libro dopo Un colpo perfetto che parla di affari interni, poliziotti che indagano su altri poliziotti. Ci sarà un secondo libro con gli stessi personaggi, poi forse Rebus tornerà. E questo era Ian Rankin, ora in libreria con Un colpo perfetto. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che ci trovate sul nostro sito internet www.radio24.it, anche in versione podcast, e ci trovate anche su Facebook. Un saluto da Alessandra Tedesco.